No, non vuole entrare. Vabbè, avanti. Attento, canzone. Io almeno il male di queste cose hanno alterato tutto il sistema, hanno alterato, perché la verità non la scopriremo mai, ma sarà così. Perché è troppo strana la cosa. Troppa gente sta morendo. Mi senti? Sì. E poi gli ho detto alla dottoressa, ma sono i vaccini? No, non sono i vaccini. Non sono i vaccini. I vaccini, e loro non la metteranno mai, capito? La medicina non ammetterà mai certe cose. C'è qualche dottore che era non vax, l'ha detto chiaramente, che hanno messo cose nei vaccini molto pericolose. Non la mettono mai, non la mettono mai questo, però già sono visti i vaccini, già sono i vaccini, da quando hanno giovato i vaccini il cazzo si è buttato a dolori. E io lo stesso, cazzo, da quando ho fatto i vaccini sono senza dolori. Manuel, non sei uscito. E magari sarà anche un caso, non lo so, però prima non soffrivo di dolori così. No, ma secondo me, io gliel'ho detto, da quando abbiamo fatto questo cavolo di vaccini, cazzo, siamo tutti tanti malati, tutti. Ogni arrivo ne è uno che muore di cazzo, tutto di infarto, tutto dalla stessa cosa. Sì, perché facevano azione dopo un po' di tempo, capito? Non subito. Perché qua io le ho fatte perché le dovevo fare, se no non avevo fatto. Ero costretto a farle, se no manco uno non avevo fatto. E dove non ti facevano entrare? Se non facevi, non avevi vaccini dove lavoravo non ti facevano entrare. Tutti in mascherina eravamo, tutti con la mascherina, tutti. Dovevi essere vaccinato, se no non lavoravo. Certo, figurati. Per carità, già siamo messi bene. E adesso stanno uscendo con, prima erano i vaccini, lockdown, ora uscendo con questo cazzo di fate le scorte dell'acqua, del mangiare per 72 ore. Ogni arrivo ne è una, cazzo. Per della paura, capito? Non ti vogliono lasciare in pace. Ti vogliono fare vivere nel terrore sempre. E 72 ore, dopo le 72 ore cosa fai? Ti ammazzi. Ma io. È uno schifo, un'Italia sta diventando uno schifo totale. C'è da fare la guerra, politica che mi dice, la guerra volete fare, volete spazzare l'Italia, curiti una bomba nucleare, fede lì, senza cadere molla, tira e molla. Non si vive tranquilli, non si vive tranquilli, la gente è sempre con l'ansia, per questo motivo qua, alla gente gli sta prendendo sempre l'ansia, perché sente di queste cose, specie la gente anziana, non vive tranquilla. A me manco male un cazzo, me ne faccio, la guerra, ma che la volta, io sono contento che la fanno questa guerra, perché in quelle condizioni che stiamo vivendo in Italia non si può più vivere, ancora non sono disabilitati, non si può più vivere. E aspetta che mette il dazio, che sono di grandi anni, mette il dazio su tutti i prodotti, chissà dove andremo a finire, già ce la fai adesso a fine mese, così, da voi non vi lavare manco a fine mese. Ma che si ammazzano di tutti i gatti, ma che si sparino, neanche ne ascolto di queste cose qua, perché intanto ti viene di più nervoso e basta. E io sto facendo lo stesso, il telegiornale non so più ascoltare, prima lo ascoltavo sempre, ma non ascolto più. Tanto ti mette solo ansia e basta, invece così vivo tranquillo, si vede che bomba, ma ammazza non so più nulla. Invece vivere con l'ansia è brutto, stai sempre pensando, la notte non riesci a dormire, stai sempre pensando a queste cose, io più che altro penso ai miei figli, quello sì. Tanto la bomba, si hanno la lampada di la lampada di durante la notte, mica della lampada di lì, durante la notte te la buca, l'hanno già tutti dormiti. io so solo che sono dei vigliacchi. E ma tu è così. Stiamo vivendo, stiamo facendo la vita come, guarda, già che era povera prima l'Italia, ma adesso ci stanno costringendo proprio un cazzo terra a terra, siamo terra a terra proprio. Ma siamo quanto stanno parlando male dell'Italia, ui. Adesso se mette questo dazio qua da pile, cos'è la gente che se ne va a casa? Non funzioneranno più i pezzi di ricambi perché li prendono tutti dall'America, non, li esportano, li prendono, e le macchine non le possono più vendere perché ci sono 25% di dazio che devi pagare, e chiuderanno tutti. È uno schifo, guarda, si sta diventando, più stiamo andando avanti e più sta peggiorando, l'Italia sta peggiorando sempre di più, se eravamo poveri, quando c'era la vita sì, andava bene, stavamo bene, sto qua, da grande istituto un cazzo di libro, man mano che andava sempre più povero. Io stiamo andando i pesci, lo sai che ci ha guadagnato con lì, non solo che solo gli imprenditori, i venditori, gli alimentaristi, tutta questa gente qua che c'ha soldi ci ha guadagnato, noi solo l'abbiamo perso, perché non hanno fatto praticamente lo stipendio, non l'hanno aumentato, era sempre lo stesso, quindi le cose hanno aumentato e tu andavi di sotto sempre. Ma è diventato uno schiccato, la benzina quasi a 2 euro, dai, allucinante, una cosa oscena, che cazzo mi ricordo, andavo in Svizzera, a Lugano, da dove abitavo io ci mettevo un'ora e mezza di macchina, no, 2 ore di macchina, bugia via. Andare lì pagavo 70 centesimi al litro la benzina, 70 centesimi. Lo so, lì il contratto di meno, anche le sigarette, infatti molti si portano le sigarette in contrabbando per quello, perché costano di meno, è Marlboro, le sigarette che costano, lì costano molto meno, cioccolato, tutte queste cose qua le vendono meno, ma adesso il gas ha diminuito, perché io sono andato a fare il gas, l'altro giorno mi ha detto che aveva diminuito, dice, sei stato fortunato, oggi ha diminuito il gas, addirittura giorni fa era ancora di meno, poi è salito qualcosa, però è sempre di meno di come lo pagavi prima, la benzina invece sta aumentando. Anche noi abbiamo abbassato. Il gas in bombole qui. E la vita sta andando a 27. Sì, a 27 la prendo anche io da fare, a 27 con 6 euro di trasporto. No, 27 portata. Sì, io guardo, 27 portata. In pratica è 24 la bomba. Da 10 kg? Sì, 10. Anche io la prendo da pala. La prendo anche io da pala, pure via Baldetta. Sì, per anche via Baldetta. Io l'ho presa sempre la pala, 27 portate. Però cazzo, 27 è un bel, cazzo 27, ma ti rendi conto? Ma infatti è un bel, perché io in macchina faccio il pieno e il massimo che spendo è 32 euro, proprio quando è a zero, se no ne spendo 22, 23. Ma tu prendi quella a 15? No, da 10. Ma io se c'è in macchina metto il GPL, no? E lo pago, faccio un pieno con 32 euro. Allora, il GPL c'è in macchina? Sì, io c'ho GPL e benzina. Ma te l'hai fatto tu l'impianto della gelosia? No, l'ho comprata nuova io con l'impianto GPL. Ah, no, pensavo che l'avevi presa benzina e poi hai fatto l'impianto tu. Quello l'ho fatto nella Opel Station Vego, l'ho fatto fare io, nella Opel Station Vego, perché quella consumava un bel, era bella come macchina ma consumava, invece a gas andava che era un dio. L'avevo fatto anche io, c'avevo l'Opel Zafira, 7 posti, l'avevo fatto l'impianto anche io. Da Gavino l'hai fatto? No, su a Milano, quando ero su a Milano, ti parlo il cazzo della vent'anni fa. Tu hai abitato a Milano? E vicino lei conosce Roma, Becco, Brianza, Caruzio, Ascoli. sì, mio padre era di Cugiono, vicino a Legnano. Oggiano o Cugiono? Cugiono! Vicino lì, tutto in quella zona, insomma. Vicino a Legnano, a Buscate, tutta quella zona. A che tempi, il lavoro c'era prima, avevano un cazzo. È perché non sei stato lì e ti trovavi il lavoro lì. No, una volta mi ero separato mia moglie, me ne sono sceso giù e basta. Non avevi più scopi, dai. No, morendo potevo anche rimanere, cercare altro lavoro. Il lavoro era poche, a parte che il lavoro era quasi finito, quindi lavoravi una settimana sì e un mese no, e il cazzo per farmi la mamma me la porta da un paese lì. Ah beh, e almeno qua c'avevi tuo fratello qua, tua madre viva era quando si veniva. C'era mia madre, i miei fratelli, cazzo, me l'ha detto mia madre, dice andiamene giù. Mi ha affilato, se ne tenere giù perché lì non c'è nulla, qui là, io non ci volevo scendere. Alla fine ho cominciato a pallire, vabbè là, ho consegnato le chiavi, ho svuotato l'appartamento e mi si devo fare di Dios. Vabbè, è stata una tua scelta, dai. E anche altra gente lavorava lì e poi scende qua. Vabbè, sono esperienze che ti fai. No, io fuori così non ci sono mai stato, fuori a lavorare no. Però 80 km al giorno me li facevo. E anche io li facevo su, già. Anche io su, quando ero prima di entrare in guardia giurata. Prima ero, te l'avevo detto, facevo posato di marmi, ero nell'edilizia. Poi alla fine col problema che avevo con la schiena e tutto, mi sono fatto domanda come guardia giurata e mi hanno assunto. E poi facevo quel lavoro lì. E lì dovevi girare sempre. Ma lì le guardie giurate sono pagate diversamente, vero? E lì prendevo allora, come appena assunto, prendevo 1.800 euro appena assunto. Figurati, lo so, perché lì c'hanno il contratto nazionale, invece qua c'è ancora quello regionale. Poi quello facevo straordinario, tutto quanto, che facevi le banche, facevi, a volte facevi il blindato, quando non c'era nessuno, quando non c'era l'altro collega, prendevi quei 2002, 2003, dipende dalle ore, tutto dalle ore che facevi. Cazzo, stavi bene allora. Avanti. Il lavoro già lo sanno, uscivi di testa, il lavoro non era pesante ma pesante mentalmente, beh. È un lavoro che tutto quello che non ci succede in tanti anni ti può succedere in un minuto. Avanti tu. Io ho fatto cambiare il pallolino. 10 giorni. Mi è arrivata gente. Ti devo lasciare, ok ragazzi, ci sentiamo alle prossime. Ciao Gianni. Ciao Emanuele e ciao Antonio. Se ha cosciente. Ci risentiamo alle prossime. Ciao Tore, ciao. Avanti Emanuele. Ciao Tom, buona serata con tutto, dai, ce la riascoltiamo tutta le migliori. Vai già. Cappa. Niente, dai. Ciao Tore, ci sentiamo, dai, alle prossime. Grazie per il QSO. Cosa ti stavo dicendo? Non so che ore sono, perché io sono al buio, sono con il cazzo. Mentre sto modulando c'è tutta la questione notturna. Io sono un quarto, so. Tra poco vado che devo portare il cane, c'aveva ragione a Mugugna. E da poco mi si pongo nell'unità di Obura, che adesso è come ne devo pisare. E non lavora, così mi dici? No, aspetta di digerire quello che hai mangiato prima, che se no non digerisci. E già digerisco, da una scoreggia all'altro. Per carità. E sì, ecco. Io sono tutta dolore in casa, non vuol dire, ciao, dolore alle braccia, alle mani, alla gamba, ancora non mi hanno chiamato, in chi? Fare fisioterapia, sto aspettando che mi chiami. storia, lascia perdere. Comunque quella pomata che mi stavi dicendo del cavallo, lo sai dove ce l'hanno pure? Lì dai cinesi. Ma davvero, dove l'hai vista? Stasso pensando a te, vedi la pomata che mangiare. C'è quella rinfrescante e quella otto, quella che scalda. Quella riscaldata, e dove l'hai vista tu? Lo sai dove c'è, che vai all'Auscia, che c'è quel negozio di moto più avanti, alla rotonda, all'incrocio? Sì? Ehi, non c'è quel negozio tutto per la casa, che c'è quello, non so, cinesi sono, sì, che c'è tutto per la casa, che c'è la prima altruna, cosa era? Media World, cosa era questo negozio? Media World. C'è, ah, ho capito, quello nuovo che hanno aperto prima dell'incrocio. Aspetta, allora, visto che c'è Walk, Walk, sì, c'è Walk, vai dove c'è Walk, dopo trovi l'incrocio che vai verso la lateria e verso per tornare indietro dove c'è il rifornitore. Prima del rifornitore, sulla destra, c'è quel negozio tutto cinese, tutto roba di cinese. Fatto bene a dirmelo, così almeno non sto a ordinarlo da fuori. E quanto costava? Se l'hai guardato? Una cazzata, 2,50€, il barattolino piccolo, poi l'altro c'era da 5, sì, dipende il barattolo che prendi. Io prendo quello da 513. E allora sono qualcosa a me. Buona sapersi, sì. Così almeno non sto a ordinarlo. Così quando adesso vado e lo cerco, se è quella che uso io, se non è qualche facsimile, perché quella che uso io è, guarda, è micidiale, ne ho provato mille di pomate, ma non ne ho trovato una che faccia bene come questa. Ah, no, vai che è quella, l'ho vista, cioè, è rossa, è crema rossa, sembra gelatina, sembra. Sì, è rossa perché è rossa perché c'è peperoncino in mezzo, quella che scala. C'è rossa, c'è azzurra, azzurra come l'acqua, ce ne sono vari colori. Cazzo, rinfrescante è quella riscaldante. Andave, è fatto bene a me, ma anche quel mio amico continente se l'aveva trovata dai cinesi, invece io non l'ho trovato qua. Ho chiesto in farmacia e non ne avevano. Dice che ci avevano delle pomate similari, che avevano gli stessi ingredienti, poi non mi hanno fatto battere. Le ho pagate anche 43 euro, una pomata da 500. 43 euro e non mi ha fatto battere. No, no, vai lì al sicuro, lì ci sono, vendita, lì a Voglia si vendita. Ma quello lì è un negozio nuovo che hanno aperto, così? Ah, c'è un negozio nuovo che vi sarà minimo 30 anni, 5 anni, a bici. Sì, non è quello di cinesi che si va dentro, che si va all'interno, no? Allora, io ti ho detto, fai l'incrocio che vai verso la lateria e verso per andare al rifornitore, visto che c'è il rifornitore sulla sinistra. Sì. E di fronte ti trovi poi quel negozio di moto. Sì, tutto moto. Bravissimo. Prima del rifornitore c'è questo negozio sulla destra che c'è una salita, entri lì. Va bene, adesso guardo, vamo a vedere, dai. Più o meno ti ho capito dove. E come si chiama il negozio? Non me lo ricordo il negozio, ho già. Come si chiama? No, non me lo ricordo. Comunque, prima del rifornitore, non puoi sbagliare, prima del rifornitore fai la salita, vai in fondo, sulla destra trovi il negozio. Ehi, vabbè, ma noi io ti saluto, dai, che devo andare in questa. Mi sta chiamando il Tyson, dai. Ciao, piccolino, andiamo. Via, gli la come ti dico, aiuto. Ehi, dai, qui io, già ci sentiamo, ciao già, ciao a tutti. Ciao Antonio, ciao, già che ti ascolta. Ciao, ce lo sentiamo. Tanto, ciao. Allora ti mando una fotografia dell'apparecchio che l'ho fatto un bel bello. Regale. Antonio.